dalle informazioni che voi fino adesso siete riusciti ad avere, chi sono queste persone, quante domande sono state inoltrate? Guardi, noi abbiamo poche informazioni, sappiamo dalle autorità italiane che gli etiopi, gli eritrei e i somali sono stati trasferiti in un centro a Crotone, parliamo perlomeno dall'unica informazione che abbiamo ricevuto di 100 persone, così come abbiamo anche appreso che i nuclei familiari erano stati trasferiti fuori del centro di Lampedusa. Non so se poi nei voli che ieri ci sono stati su Crotone ci fossero altri etiopi o eritrei a bordo di quei velivoli, questo non ho idea, non abbiamo avuto nessun riscontro su questo, perché ieri effettivamente due voli sono arrivati a Crotone. Mentre per quanto riguarda i rimpatri forzati che ci sono stati verso la Libia, siete riusciti a monitorare un po' meglio la situazione? Guardi, non sono dei rimpatri, sono dei rinvii, perché le persone non sono libiche. Quindi il rimpatrio avviene verso il paese di origine, in questo caso avviene verso un paese di transito che è la Libia, quindi questi rinvii forzati sono stati fatti nei giorni scorsi e sembra che la maggior parte delle persone a bordo degli aerei fosse appunto egiziana e tunisina, dopodiché è difficile sapere quello che succede dopo in Libia, anche noi abbiamo difficoltà perché abbiamo un piccolo ufficio in Libia che non ha molte facilitazioni e molto accesso ai richiedenti asilo, tant'è che ultimamente c'è stata una vicenda molto incresciosa di un gruppo di eritrei 75 che sono stati messi su un aereo per destinazione Asmara che hanno dirottato l'aereo quando hanno capito che stavano ritornando in patria, l'hanno dirottato su Khartoum e lì hanno chiesto la nostra intercessione, quindi avendo parlato con queste persone ci hanno detto di essere state tenute in detenzione per un lungo periodo in Libia, essere state percosse, aver avuto abusi fisici, di aver chiesto ripetutamente di fare domanda d'asilo e non è stato permesso loro di farla, così come non è stato permesso di vedere i funzionari dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Inoltre hanno appreso di essere rinviati in patria solo a bordo dell'aereo e per questo in preda alla disperazione hanno fatto questo dirottamento. Quindi da qui si evince che ci sono dei problemi poi in Libia rispetto all'accesso alla domanda d'asilo e al trattamento di queste persone. Quindi noi non siamo stati informati neanche di questo accadimento e nonostante le persone avessero chiesto di incontrarci, e quindi ribadisco il fatto che anche per quanto riguarda il lato libico abbiamo appunto qualche perplessità e molte preoccupazioni. Ecco, un'ultima domanda, una riflessione: in Italia manca una legge sul diritto d'asilo, la Libia si è rifiutata di aderire alla Convenzione di Ginevra, voi avete fatto appello invece proprio alla Convenzione di Ginevra per quanto riguarda l'Italia, a questo punto il governo italiano su che cosa si basa per poter agire nei confronti di queste persone e che risposte vi ha dato circa le vostre richieste? Che il fatto che non c'è una legge organica sull'asilo non significa che non ci sia comunque una regolamentazione dell'asilo, questa c'è in base alle leggi sull'immigrazione, quindi parliamo della Bossi-Fini, parliamo ancora della legge Martelli, quindi l'asilo è regolato in Italia, il problema è che non è regolato da una sola e unica legge, ma è regolato da più leggi sull'immigrazione, quindi il problema italiano è che sarebbe molto più efficace avere un'unica legge che raccolga tutta la materia d'asilo e la gestisca in un unico testo, anziché avere questa segmentazione che sicuramente non aiuta. Questa mattina non ci sono stati risvolti, non ci sono stati, non c'è stata nessuna reazione da parte delle autorità italiane alla nostra richiesta. Peraltro questa situazione ci mette molto in difficoltà perché ci impedisce di esercitare il nostro mandato, che consiste nell'accedere ai rifugiati, ai richiedenti asilo e nell'assicurare che chi vuole fare domanda d'asilo ha la possibilità di farla. Quindi è una situazione molto difficile, noi ci rendiamo conto che questi arrivi hanno creato grosse pressioni e che è anche molto difficile riuscire a gestire tutto questo, ma è anche vero che siamo dell'avviso che comunque coloro che vogliono chiedere l'asilo debbono poterlo fare in ogni caso, in ogni circostanza. Questo, ecco, vorrei sottolineare il fatto che l'attitudine che si riscontra, cioè di associare l'asilo a certe nazionalità, comunque è fuorviante e non va avallata, perché ci sono persone anche che provengono magari da paesi che normalmente generano dei migranti economici che possono essere bisognosi di protezione internazionale. Quindi non possiamo dire che gli egiziani o i tunisini non hanno accesso alla procedura perché non ce n'è bisogno, mentre tutti gli eritrei e tutti gli etiopi immediatamente e automaticamente vanno a poter fare la domanda d'asilo.